Dopo un pomeriggio ad Annabelle, una delle ragazze che sta svolgendo proprio adesso il servizio civile presso la UIL-DM di Bologna. Ciao Annabelle, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fugico. Salve a tutti. Allora Annabelle, ci puoi raccontare un po' perché hai deciso di intraprendere questo percorso? Quindi perché hai iniziato a fare il servizio civile e perché proprio alla UIL-DM di Bologna? Allora, io ho 25 anni e sono iscritta alla magistrale a Bologna di Sociologia e Servizio Sociale, per cui mi sembrava proprio un'ottima occasione per cercare di entrare nel vivo della realtà dove mi piacerebbe lavorare in futuro, sia il sociale. Ovviamente ancora sono molto giovane, mi sento ancora giovane, però proprio per questo mi interessava cercare di impegnarmi in qualcosa di concreto, anche per farmi un'idea su quello che potrebbe essere. E ho scelto per cui di applicarmi e iniziare a fare il servizio civile presso la UIL-DM di Bologna, perché mi ha intrigato questa realtà così lontana da quella che sono io e quelle che sono state le mie esperienze. Quindi io in realtà, cioè, non conoscevo la patologia della distrofia muscolare prima di inserirmi, quindi può sembrare abbastanza inusuale il fatto che io abbia scelto di lavorare per la UIL-DM, però io ho anche pensato che di non fare delle preferenze di categoria rispetto a quello che è un ambito più grande dell'aiuto nei confronti delle persone in generale più bisognose. Quindi sì, la UIL-DM è una realtà molto piccolina, quindi ho pensato che potesse fare al caso mio. Ha una splendida sede che si trova in via San Leonardo, che è proprio al centro in centro città, ma al di là di questo la realtà della disabilità è qualcosa a cui non avevo mai pensato in precedenza, però nel momento in cui ho letto vari progetti dei vari luoghi, ho pensato perché non provare a lasciarmi sorprendere. Certo. Senti Annabel, consiglieresti questa opportunità, il servizio civile proprio alla UIL-DM, anche a altre persone, altre ragazze come te? Assolutamente sì, lo consiglio, perché io ho imparato tante cose da questa esperienza, mi sono un po' illuminata rispetto a certi aspetti che esistono, ma che molto spesso sono sottaciuti, non si notano. Io ho scoperto che è proprio perché vado direttamente, ho scoperto che le persone con disabilità, con la distrofia e con la disabilità in generale sono diverse, però purtroppo molto spesso non se ne si rende conto, non si notano, insomma, troppo spesso in giro. E poi sì, è anche un modo per entrare in contatto con le persone, e con quello che a me sta piacendo molto è che si sta creando un rapporto di intimità con le persone da cui vado, di amicizia. È commovente vedere come anche le famiglie delle persone a cui vado sono molto generose, riconoscenti, però è un senso molto genuino, mi sento accolta da tutto il contesto, oltre che dalla persona in particolare, e a cui spero di stare facendo del bene. Comunque lo percepisco io quando esco dalla casa delle persone, cioè che entrambi ci lasciamo un pochino felici. Bene Annabel, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da così vicino la tua esperienza di servizio civile, e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie a te per avermi ascoltato. Alla prossima, se ci sarà occasione.